10 CQ10 CQ10 c'è qualcuno in ascolto? Se esce male è perché c'è qualcosa. Va bene, dai, non c'è problema, sono qua. Avanti, se c'è qualcuno sul canale 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Sì, avanti. Ciao Gian, Natalino sono, buonasera. Ciao Natalino, si sente l'elicottero, cosa c'è? Qualche vento attaccato? Sì, sarà quella dell'alimentatore. Ma cosa sei? Con quello grande? No, con la Nittone, no, mi sembrava quello grande, perché si sente un bella ventola, non capisco il perché, non si è mai sentito da te. E prova a vedere, si sente adesso. C'avevo il microfono vicino. Adesso va benissimo, adesso è di lusso. E allora Natali, c'era Bruno, mi è andato a comprare una cosa in negozio e poi mi ha detto che rientra. Oh. E so, io, stamattina sono sceso a Platamona e non l'ho trovato, deve essere non ci sta accendendo. Non sei che fissata lì, vado da Gianni, scendiamo insieme, no? No, sono sceso, siccome dovevo fare l'esame, quell'esame là, no, sono andato a farmi prelevare il sangue, che è venuto Franco a pigliarmi per non farmi andare a pigliare la macchina, e sono sceso con lui. Ma ce ne siamo saliti subito, però, perché dovevo venire qui, che doveva venire il vicino qua a finirmi il bagnetto. Ma comare, tu vieni da là. Boh, non ne posso più. Ah va, fissacando un campo, rimane così. Come? Ho detto, va, fissacando un campo, rimane così da casa. Va, è fatta come ti si tocca, va, si tratta di buribè tutto. E basta. Oi, ho perso 3 paia di occhiali e non so dove li ho messi. Ma io le compro sempre 3 o 4 alla volta, però Natalia, ho capito che quelli per guardare da vicino, i migliori sono quelli che hanno la montatura cromata in oro, color oro, perché ne ho avuto tanti, quelli in plastica mi si fasciano i giubili, invece questi qui ce l'ho già da un mese. Sì, io invece ho quelli da lontano, ho perso, quelli da vicino già ce li ho. Solo che un paio dei miei costa 500 euro. Ma io grazie a Dio non ne ho bisogno da lontano, c'ho 10 decimi a un occhio e 11 decimi all'altro, quindi non ne ho bisogno. Io invece sì, perché sono astigmatico ipermetrope e quindi quelle lenti neanche a Sassari sono, non ce n'è, bisogna farle arrivare da fuori. Allora, chissà un distiraggio buci io che avendo in indutto dai nomi devo cercarli, perché sono 3 paia di occhiali nella custodia, figurati, persi, non so dove sono andati a finire. E magari quando manco te ne aspetti li trovi, capito? Anche a me succede così, perdo la roba, poi non mi ricordo dove l'ho messa, quando poi non ci pensi più la trovi. Vabbè, è che c'ho solo questi da lontano, da vicino gli occhiali, capito? Ho capito. Come sta uscendo questo apparecchio? Questo è il Ruis, l'ho provato a accendere perché era un po' che era spento. Ah, già sta uscendo bene. Vediamo un po' se il Cembrullo è rientrato, doveva andare verso le Querce, era, però stavo uscendo bene, mi arrivava a 9.30 qua, dalle Querce, e quelle antenne vanno bene, io le ho fatto comprare da Mini Turbo. Sì, c'era quella infatti. E gliel'ho detto io di comprarsi quella che andava bene. 2 segnali in meno di quella grande, quella lì. Praticamente se arrivi 9 e 10 con quella arrivi 9. Ah, 2 segnali in meno. Ehi, vabbè, che va bene. C'era quell'amico di Bruno stamattina a Platamona, Antonello, ci abbiamo bevuto il caffè assieme e ce ne siamo saliti poi io e Franco. E gente pescando, ce n'era nata lì? No, no, non ce n'era, non c'era nessuno pescando. E gente faceva sul bagno? Neanche, non c'era nessuno. C'era poca, domenica mi c'era un bel di gente. Ehi, vabbè, ma in settimana lavora, non bisogna andare in settimana a farci una pescata, che faccio una gana, c'ho le canne, le ho tutte quante ripristinate, le ho messo, le ingrassate, fatte, mulinelli, pulite, lavate, perché erano piene di polvere come erano in terrazzo. E adesso non mi resta che andare a fare 4 tiri, però non mi decido mai, Natalia. Sì, magari... No, non ti piace magari andare a Zurami? Ah, oh, che ci sono andato un po' di volte anche da solo, Natali. Io ho fatto anche notturni da solo, figurati, poi io quando trovo gente già a chiacchiere, sono socievole, quindi conosco gente, a Busidora mi conosciamo in tutti a me. E beh, chi su di è? Andavo al porto, un giorno sono sceso al porto e ho portato la fenia a tutti quanti, no, caso già, ma non c'era bisogno, e vabbè, comunque va giù, va, se la rimane da tutta, ho preso un vassoio di fenia, ci sono anche dove disturbare, e vabbè, io ci ho fatto così. Sì, infatti, una giacciara da Enoch, una giacciara da Anchidà e ti rilassi almeno pescando, capito? E allora, tanto, vabbè, io canto anche, già mi rilascio anche cantando, però mi piace anche pescare, mi piace, però adesso non lo so se mi annoio, perché prima lo facevo con molta passione, capito? Adesso non lo so com'è, perché ho abbigliato di San Mandrunia, nel senso che decido di fare una cosa, poi dice, vabbè, la faccio domani, là. Adesso non ne ho voglia, mi riposo, e non ci vado, capito? Poi domani la faccio, però intanto rimando sempre. E perché molte volte non è voglia, sei stanco, capito? A me pure ti dico sì. Adesso per dire stamattina c'avevo tutto il tempo, dovevo andare a mettere il gas alla macchina e poi lavarmela perché fa schifo, ho fatto quella pioggia sporca e bella tutta quanta, poi il nero si vede un bel, e la volevo portare a lavare. poi vabbè, mi ha sorpreso stamattina, quindi ho cominciato a dormire, ho fatto tutte le cose che dovevo fare, pulito il pappagallo, ho portato il cane, lavato tutto quanto, e sono arrivato alle 11, cioè avevo tutto il tempo di farla la cosa, poi ci ho ripensato, vabbè, mi pongo a cantare, me ne ha fatti tutto, invece ho cominciato il divano e via. Sì, infatti, ma io domani a giornata a ritirarmi un referto, ma cosa mi servi paghi sadacchi che mi devi va, e quindi lo mando a Gaia, l'amica di Concetta, gli porto la fotografia e vi romando, così la baida. E infatti, speriamo che ci decidano a fartela questa cosa, così almeno stai tranquillo. E puoi andartene a farti un giro, una passeggiata, una cosa, e sei sempre segregato di a casa senza far nulla. E infatti, mi si sono senti i piedi sempre. C'ho la gamba, cazzo, che depresso non riesce a tornare indietro, il sangue è una è più grossa dell'altra. Tienila in alto, Natali, tienila in alto, quella che è più grossa. Mettici due cuscini quando dormi sotto, perché se no ti si fa tutto viola. Ho capito. E vabbè, adesso intanto dall'attacco vedono cosa è il difetto, si vede tutto. Ma vediamo un po', speriamo che vada tutto bene. Sono portato a te, sono ieri giù e ha cominciato a ansare, tipo come quando c'era un attacco d'asma, ma veloce però, ho detto cosa ti sta succedendo, gli ho dato un colpo e l'ha smesso, non capisco cosa sia successo, forse tipo una respirazione veloce, mi è capito come. Ma noi va via che cosa risa in gola questo cane, no? E cosa ne gioco? Poi l'ho portato in giro, alza la zappa, comincia a zoppicare, gli alzo la zappa, Natale ci aveva, mi sono punto anche io, sotto ci aveva uno di quegli affari rotondi tutti pieni di spine, ce l'hai presente? E io ho capito, ma pari batta poi, tu sai su cani capiteggiano i cose. Per carità, guarda. Sono ieri c'era a posto di blocco dei carabinieri vicino a casa, mai visto l'avevo. Mi sono messi vicino a casa, sicuramente l'hanno segnalato perché camminano un bel, non fa manco attraversare la strada dei gatti gheggiani se non stai attento. Camminano come c'è una piccata lì, proprio mio amore, si dice, camminano come scivo. Se non so che io mentre si vado a camminare in questa strada. Oh, sul passaggio pedonale ho dovuto indietreggiare con te, perché se l'altro giorno proprio come metto non so. Se non indietreggio io mi piglio in pieno. E non che sono macchino mattessimi. Cazzo, vicino alla curva lì, per poco nel passaggio pedonale mi liberanza mi la stavucciano. Cazzo, non mi ne avviso io che era di tratto. Appena dopo la curva c'è un passaggio pedonale lì, venendo dal ponte, no? Cazzo, ma anche lì se non stai attento di liberanciami. Perché la fanno troppo dietro la curva, anche qua, tra via Bonorbe e via Amore, se l'hanno fatto troppo dietro la curva, la macchina gira e si trova l'impatto, la persona, capito? Dovrebbero farlo più distante dalla curva. Guarda, me ne sono accorta, ti ho messo la mano in andato cofano di questa macchina, gli ho cotto un brinco, a chi se no mi avvia il carabinato, visto. È troppo vicino alla curva il passaggio pedonale, è pericoloso lì. È pericoloso perché la gente cammina, Natale. Se uno fosse andato come doveva andare in città, avrebbe rallentato e rispettato i limiti, non sarebbe successo quello, perché avrebbe avuto tutto il modo di fermarsi se vedeva gente passare, ma se cammina non ce la fanno, di bicicleggiare in piedi. Ah, poi mi ne sono capizzato che era burro di tratto, vicio. A Giovanni ti buone sotto la di a sto del 9. E io ne ho preso a voce uno l'altra volta, stavo attraversando col cane, è passato a razzo, si è filmato con una macchina, ha detto cazzo, ma un cane di Bolivia, cecchiria, non è lunga, anche io cosa so, un cane, gioco. A parte che il cane per me è tutto, l'ho detto, non vuoi, ah vaffanculo, e si è andato un camminetto con una macchina, no? Fra silenzio. Quelli sono i classici ignoranti, cioè chi si chiude le noghe, sono tutti così. Sì, a chi no che piacerà a Meridiana, quella zona lì, se tutti i gatti uno bicio di là, se sono proprio a terra. Sì, su, già ce l'hanno messa la gente vicino, abbiamo speso un sacco di soldi per la casa e poi stanno buttati i saietti così. Sì, infatti. Sì, su, no, ma è una cosa, chi non si gridi. Chi no che addirittura siamo arrivati la succursale dell'Africa. Ma non si è fermato con la macchina, non si è fermato, ha fatto Francibeng e ha dei disegni, capito? Non si è fermato, anche se si fermava lui via. Comunque io la macchina già l'ho riconosciuta, io la dico, la Mercedes piccola e c'ha un adesivo dietro, se lo rivedo già te la zantare giù. Sì, a tutti i dini già, tanto non lo vedi che è un ignorante. Cazzo, ma Rugani, a chi sono Rugani, vedi, vedi Buruzzu? E poi non si tratta né di cane né di ghiccio, uno bisogna stare attento quando guida e basta. Io so quello che si manni quando guido la macchina. A chi lo so intanto, se non mi ammazzo io mi ammazzano gli altri. E devi stare attagliati, non a te, tu già lo sai quello che fai, ma gli altri non stanno attenti, se la frutti di cazzo, di dai tu, non è vedi, non è per loro, per carità di Dio, guarda. Oh, e si sono messi i carabinieri, li hanno fermato un bel di macchine, tutti sparati, no, quelli che hanno fermato, tutti sparati, camminando come matti, poi sono guasti perché hanno messo le luci, quelle fisse, i carabinieri, no? C'avevano la macchina nuova, quella che c'ha anche le luci davanti, eccetera, eccetera. E si vedevano da lontano, tanto camminavano a testa. Casomai, avammi, i suoi figliati, buonanotte di tutti, avammi. Hanno già mandato il codice della strada e hanno fatto delle cose assurde addirittura. Oggi vi vuole nei bocca pigliattini la patenti. Lo so, però ci sono troppi di questi ragazzini che si comprano macchine tipo BMW, Audi, tutte macchine così grosse a seconda mano, le pagano 3.000-4.000 euro a seconda mano e hanno macchine che sono fulmini, camminano un bel, e le metti in mano a un neopatentato che si esalta, non gli sembra di essere il padrone del mondo. E guarda che se sono neopatentati prima di 3 anni, macchine così non ne possono portare, lo sai? Sì, già lo so, ma ci sono quelli che le portano lo stesso, vanno anche a fare le gare addirittura. Hanno fatto vedere in un programma praticamente che si riuniscono di notte e fanno le gare in questa strada. E questo qui ha filmato quando fanno le gare, capito? Tutti i ragazzini sono con macchine grandi, con macchine grosse, con Alfa Romeo, Audi, tutte macchine così sono, Mercedes. Sì, a lui fatti un'idea, circondarli, la polizia pigliano i battenti e macchina, è la macchina blu, noi dice tre giorni. Quando passi nei cicosi bisogna avere la polizia che li circondeggia. E vanno in posti periferici, capito, dove non li vedono. Sono rettilini lunghi e cose, fanno le gare nel rettilineo, capito? Poi c'è una curva, poi ritornano e devono arrivare all'arrivo. E fanno, sgommano, fanno girare le macchine, e fanno delle bocche di casino. Sì, infatti, chiama Bruno per se è rientrato. Attenzione, uragano, ci sei. Ha detto che siamo a 5 minuti, ma a 5 minuti proprio a prendere una bottiglietta d'acqua, e poi si è trovato fila di gente alla cassa. Si va a prendere una bottiglietta d'acqua. La guaccia, c'è Bezzaronga che c'è bottiglietta in leva. E magari ha trovato gente, secondo dove va c'è la fila, la cassa devi, se non c'è gente gentile che ti fa passare, quando ti vede con la bottiglietta d'acqua e non ti fa passare, devi fare la fila. Lo so, ma siamo sani già. A me solitamente mi fanno passare quando vedono che ho poca roba, no, non passi, grazie, cosa devi fare? la gente gentile già si trova ancora, è poca ma già c'è. Attenzione Bruno Uragano, ci sei? Quest'acqua cosa te l'hai? Ti stai bevendo tutto qua dal supermercato. Che strano. Mi ha portato Aldo da campagna un bel quella scagliola, ce l'ho presente, ma grossa, bella, per i pappagalli, ma non hanno mangiato, si giocano, staccano i semi e li buttano in terra, non ne mangiano semi miei, sono nettarini, non toccano semi, se li dai frutta questa roba qua sì che già la mangiano, ma proprio semi, ce li ho tutti buttati in teni, ho detto chi c'ha canarini e cose, non ci ho pensato a te, se no te l'avrei dato. Ma va fatta per semi già, non per il pappagallo. Io mangio altro, non ne mangio di scagliola. Oggi mi sono fatto le uova ripiene, Natalia, ma non c'era nemmeno cubone, uova sode con ripieno di tonno, eccetera, e maionese. Fattiamo così un po'. E ero grido, ciao Bruno! Ma che fine è fatto? Stamattina sono sceso, stavo parlando con quell'amico tuo, ci abbiamo pigliato il caffè pure alla faccia tua e tu non ci sei sceso. E cosa stai dicendo tu? Io stamattina sono sceso, stamattina ero per mezzo, l'ho visto anche Antonello passare in spiaggia, ero tutta la mattina lì, quando arriva dal bar, e dal bar e poi sono andata alla rotonda, io comunque ben sentito. No, io sono un giorno per una figura, se non potevi telefonare, scusa, non c'è. Non ci ho pensato, ma non lo sintendirei, io, Giudito. Domenica pure sono sceso, e non sta giudizio, perché io vado sempre dove c'è quel bar, dove ci troviamo sempre. Sono con Varaggio, con Franco, a chi sono andato a farmi un prelievo per il sangue stamattina, no? E sono con Varaggio, con Franco, a che giunto è da pigliarmi, ma non fammi pigliare la macchina mia, e allora è venuto, siamo andati assieme e dopo ce ne siamo seduti in giù, ci abbiamo preso il caffè pure con Antonello. No, ma la follia è che si è stato, perché io me la sono andato verso 10:10, sono andato alla rotonda. No, eravamo lì a quell'ora e siamo sesi presto, siamo sesi non tardi. Io arrivo per qua, ho preso il caffè, vedi che non c'era Caterina, c'era quella sua tipa strana. E poi sono andato su lì, andando a piedi, allora l'ho visto Antonello, l'ho visto passando, l'ho visto vicino andando, io ero a torretta e lui era vicino al campo, l'ho visto, ho detto chissà se si avvicina, invece non si è avvicinato, dopo un po' me ne sono andato. Io ho capito. E all'altra volta che scendo, magari scendo domani, perché poi devo andare a pigliarmi quel referto. Insomma, sempre in giro il gioco. Vabbè, se ci sei già scendo domani, ti faccio un colpo di telefono. Io non sto passando, perché invece di entrare nella rotonda sono andato dritto quando siamo arrivati sulla rotonda. Esatto, direttamente al bar, alla rotonda sono passato fuori, cioè, allora, vuol dire che ho andato bene, io ero andato lui. Sì, evidentemente. No, cioè, eravamo presto lì, perché dopo io dovevo venire qua che stavo facendo cosa qua, capito? Noi abbiamo i burattini assai, no? No, poi io per favore non già. Avanti già. Visto che si sono lì pescando stanno Bruno in questo periodo. Oh, non c'è niente, sono trattati di tipico. Quel motorino che hanno per portare fuori, però sono andati, ci hanno girato tutta la zona, hanno preso Marai, quella zona là, andando, tornando. Allora, se devo una camera mi ha decidato lui. Ma a sentire non toccato, non so niente qua. Poi a una certa ora, vabbè, sono arrivati bagnanti, come ancora c'è per me, sono andato con le bagnanti, a una certa ora. Ah beh, certo. l'orario è quello, quindi, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, da voi non puoi più pisciare. Sì, ma io non so. Ma sugli scogli a me non piace, per una volta che è caduto Antonelli, uia, dai, dai, si è fatto male, ha sentito, non vado più negli scogli. Dai, riprendete voi che io devo mangiare adesso, al limite già entro dopo se ci siete. Ce ne sono qui. Aspetta, sono le 10. Ma Natalia ora c'è la ragosta, metta da pulire, così, la già lo so io che devo fare. È un'altra cosa, Natalia, dalle coste, la buccia, buca mira. Beh, già lo credo, non mi mangio buccia in tutto, no. La croce ha detto che è sullo stomaco, forse è sbagliato sul guscio. Vabbè, ok, avanti già. Bisogna che me ne compri, ne ho voglia. Vabbè, sono andato l'altro giorno a Black Store, ho mangiato un po' di cose così, cozze, frutti di mare, tutta questa roba qua, perché di solito è calamari, i calamari erano ben buoni, di solito a casa non ne posso mai perché gioco alla giura, cosa viene cosa mi manca, mangiami il minimo, te ne danno 2 kg di cozze, che la mangia 2 kg di cozze, boh. Tu dalle a me a vedere se mi rimagno. No, però, una cosa, come io, la partita non mi mangio, proviamo di appresso, il calamari le patate fritte. Mi stava dicendo che non erano tanto buone ultimamente, che noi abbiamo sempre lì e stava pensando che stato qua forse io mi sono preso per il giorno la pescatola che è forse con questo qualcosa là. Anche da 140 grammi la fanno bene la pasta e i frutti di mare, a me mi appassionano i frutti di mare, mi appassionano un bel, mi piacciono un bel, e io vado sempre a cercare dove lo fanno fresco, e a Porto Torre c'è San Gavino che hanno sempre frutti di mare freschi perché ne fanno un bel, e li prendo sempre la zuppetta con i frutti di mare che è buono. Ma quella di San Gavino ci vado spesso perché, ma non per me, mio fratello è convinto che sia stato da lì, con la moglie, con la mia, io dico la verità, San Gavino che li conosco, perché da poco ho preso il risotto alla pescatore, perché sono appassionato del risotto alla pescatore. E ti dico che è una roba fiera fresca, però il condimento di gambe, di tanto la roba, è tutto simile, non andata a fuori di niente. Loro ci sono fatti a pezzo, come si fa? A me non è che mi sia, perché se così le chiede, non c'è la sale, era tutto simile, però la roba era fresca. No, io quando mangio la pizza con la zuppetta, si chiama la pirata, è buonissima, e io li conosco benissimo, li fornivo io, li conosco bene, ci diamo del tu, e quando mi vedono, vengono a toccarmi la mano, mi dicono, beh, come va, tutto gatto, si avvicinano, li conosco bene anch'io. C'è quella signora, ma ci sono da poco perché io ci andavo tantissime anni fa, i proprietari erano curiosi, non c'è nessuno, non ci sono tutti e due. Era un po' di anni io non ci andavo, e da qualche anno sono andato perché per fratello mi sono trovato, e allora andiamo lì, e c'è questa signora, non c'è nessuno. portavo la merce, io compravano la roba di mare anche da noi, a volte non ne avevano invece dopo la compra, la prendevano da noi, le cose, questa roba qua, ostriche, tutte queste cose qua, e prendevo sempre roba fresca, perché a noi non ci avanzava mai nulla. Quando prendiamo la roba c'è la gente che aspetta il pesce la mattina presto, ci arriva il pesce ancora vivo a noi. E poi lo veniamo in giornata, non ne abbiamo più, specialmente le cozze partono, anche se ne migli un mese partono sempre. Frutti di mare, granchi, quella roba lì, perché vanno tutti a pescare, comprano granchi, comprano cozze, comprano frutti di mare, comprano di tutto. No, lì la pescheria va ben bene. Io ti dico la verità, io ho sempre il problema di trovare in tutti dove fanno tutti i vari, che io ho sempre paura, dai, ci vado a fare il campo. Questa volta dovrei anche cambiare il giornale, dai, non ho un po' di paura a cambiare, però vorrei cambiare, vedo un giornato l'alghero, la sera, perché sono stato diciamo due, mia moglie, da poco siamo andati alla pergola, dai, con la vita, perché tu ti paura che magari ti diano una macchina, addirittura sono andato in locale, il posto che volevo parlare era il posto che volevo parlare, io a Sassa di Pulire se prendo roba frutti di mare fa schifo. L'altro giorno sono andato da Massimiliano Siria perché non ci avevano posti, era solo un mese tardi, forse era troppo tardi. Sono andato a Massimiliano Siria e praticamente l'ho chiesto la pizza frutti di mare, mi ha messo quattro pezzettini di cosa, quattro pezzettini, due cose piccolissime, non ci vado più, per carità. Prima ti riempiva la pizza, avevo portato dei miei amici di Milano, mi ricordo, e mi ha detto, cavolo, qua sì che la pizza e frutti di mare te la fanno vedere bene, a Milano ti mettono due cagate e non sono manco fresche, sono di quelle congelate le cose. E erano stati molto contenti, adesso si sono ridimensionati, prendono la pizza e frutti di mare, cavolo, li mettono due fessilie, guarda, contatti proprio, due cozze, un gamberetto e basta, non c'è l'altro quella roba. O non ne avevano, però se non ne hai mi dici, guarda, non c'ho la roba, se ne vuoi un'altra di pizza. Avrei preferito prendermi un'altra pizza, ma avrei preso tonni cipolle, avrei preso quelle che mi piacciono a me, ma cazzo, darmi due, una pizza con due frutti di mare, fammela pagare 15 euro, non lo so. Ma non più di così, allora, siamo andati al pescatore, no, ma è tocco, al pescatore, a Plassamo, e abbiamo preso un po' di mare, siamo andati a prendere una pizza, e tutti di mare. Beh, lo sai, sono arrivato a pizza, due cose, una vuota e una stella, una. Però lì l'ha assaggiata, ha detto, mamma mia, ma sono freschi questi frutti di mare, freschi veramente. Però non ce n'erano, c'erano questi pezzettini di polpo in mezzo e non c'era altro, c'era. Tutte due cose, una viuda pregiudita e una stella, ma puoi mettere, forse il vongolo deve essere la stella, vai a qualcuno. Allora mi ha detto, facciamo una cosa, una volta abbiamo un pezzo che abbiamo detto abbiamo telefonato sabato ed è la chiusura perché non lo faccio più. Qua se vuoi mangiare roba e frutti di mare buona, prenditi la pizza pirata dalla pizzeria San Gavino e fai 13. Guarda, quando finisci di mangiare frutti di mare, dentro ci sono granchi in mezzo, granchi, ci sono gamberi, ci sono polpi, ci sono qua, piena di roba. E in più ti chiedo anche se vuoi l'olio santo da mettere in mezzo, quello piccante. Io non ne ho messo, però era buonissima così. E quando finisci i frutti di mare non hai più voglia di mangiare la pizza, perché sono talmente tanti che ti mettono il piattino a fianco, te lo cambiano. E non ho mai visto nessuna pizzeria, ti lascia sempre lo stesso piatto, non ci sta la roba, le bucce dei frutti di mare non ci stanno. Loro quando vedono che è pieno passano e te lo cambiano. Se tutte queste cose, sì, ti fanno pagare qualcosa in più, dico la verità, però almeno c'è un bel servizio. Ma d'accordo, credo sta pagando 3 euro più a 5 euro per pagare niente. E se sai che me la mangiamo, perché ti dico la verità, non per forza, no. Allora perché ci va? Ci va, è povero un certo poco, fammeli pagare, ma fammeli così. Mia moglie è stata presa con la pizza di ieri. Sto scattando. La costa della tagliata sta facendo. Vado a venire, comunque io vado spesso a Casino perché ripeto, mio fratello è stato un ragazzo, siamo molto spesso assieme, ci sentiamo, la famiglia, e questo Casino io mi dato da loro madre, c'era il risotto, ho pensato noi. Allora, per la prossima volta che l'ho fatto, mi ha detto, allora, roba era buona. No, io non ho mai trovato roba che non era buona a San Gavino. Ho fatto anche una cena al mio compleanno con tutta la famiglia, con i miei figli, la mia ex moglie, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto perché mi hanno fatto i regali e ho fatto la cena. E abbiamo mangiato di tutto e di più. Io ho chiamato la proprietaria che conosco bene e gli ho detto, ascolta, voglio roba ai frutti di mare, mia figlia vuole il riso, io voglio la pasta ai frutti di mare e poi il resto fai tutto e tu. Ci ha portato 5 o 6 antipasti di mare di tutti i tipi. Ci ha fatto assaggiare anche il pesce spada e un po' di tutto, vabbè, un cotto e assaggiato un bel, ma comunque eravamo anche in 4, capito? Eravamo anche in 4, quindi vabbè, l'ho voluto pagare io perché era il mio compleanno. Noi l'unico problema che abbiamo, invece, la zona di Albieri, che è la roba buona, ma non lo capo, la base è tutto. Dunque, sabato sera, sapete sera? Sabato sera, siamo arrivati tardi, non avevamo voglia di aspettare, siamo venuti a Milese, abbiamo mangiato una bella boccaccia, Bru, io vado ogni sabato al Ghero, non ti ho mai visto, magari non capita, però c'ero anche quando, no, questo sabato no, ma sabato scorso sì, siamo andati anche sabato, sabato scorso c'erano anche quegli artisti di strada, lì al porto, siamo andati prima lì dove, hai visto dove c'è l'arcata per andare verso l'Alghero Vecchia, no? Dove c'è la Madonnina lì, sulla sinistra c'è quella pizzeria, siamo arrivati, un posto per due persone e dovete aspettare un quarto d'ora, 20 minuti per darvi il posto, poi dovete aspettare per farvi la pizza. A giubilato, ripeto, me ne sono andato, lì a lungomare, Alghero, dove c'è la torretta per intendersi di fronte, e come siamo arrivati ci ha dato il posto e ci hanno servito subito. E neanche roba buona, dico la verità, c'era, solo che te la fanno appena vedere, i frutti di mare te li fanno vedere proprio con lanternino, quindi abbiamo preso anche i calamari e patatine fritte perché non c'è bastato. Scusa, però insomma, a noi facciamo un giro, qualche passeggiamo, no, di solito, oppure guarda, andiamo anche da parte di sempre per fare loro spiegare, eh? È già finito, non ce lo spiegare, perché c'è gente che sta a Chiare, c'è parte di spiegare, non si dietro, perché da altre parte non c'è qualche volta un po'. Poi saliamo anche a Pacifica, dove è giusto, no, dove c'è la domina, adesso l'hanno rimesso perché l'avevano rubato, poi facciamo, andiamo adesso dove è il ottobre, ci sono quelle solanti a sinistra, lì fanno la Pacifica, e lì però se tu ti fermi a mangiare il piatto unico che mangi di tutto, e a questo periodo gli avevano già 25 euro, ci mangia aperto, ci sono due, se non erano il filo, posso andare in fondo, perché alcuni sono anche un po' più grandi, sto parlando di quelli che sono al centro della piattaforma, non i ristoranti sono proprio quelli che sono al centro, che servono lì. Hanno fatto 25 euro, 25 euro c'è tutto, ma mangi il pane a tarte, mangi le cose, cosa non so. E poi va bene, anche perché allo stato, dove vai, non vuoi stare, anche da per strada, anche per l'unico posto non vuoi stare. Però secondo me non capisci, allora, tutti i ristoranti, devi lavorare bene, non ti frega niente, perché anche è un po', anche per quanto mi fa, lì, nel tuo locale, che sono interessati, i clienti, mangi bene, mangi roba buona, e tutti i locali di nessuno, mi chiedo di non sbagliare, oh, e tu vuoi mangiare bene, non ci sono ristoranti, vediamo. Quando qua di un pochino verde con le gare pazzi che ancora ci sono una cosa di giochi che piace anche con sguardo in alto dovete già fare come ormai c'è una barca e vanno in grotte di altro sguardo in alto e c'è il nautico praticamente il nautico ci sono le scale per salire guarda lì ristorante meno occupato, però non è sicuramente quello che fa è roba fresca, roba di tutto, e allora sono ristorante, sono fatto più fresca. Ho capito, sì, alle muraglie, lì dietro dove sono le muraglie. Questo, dove c'è, sono le Garibaldi, dove si parcheggiano quelli che hanno Treviso, che hanno Cavallo, dove ci sono le barche che fanno le grotte. E alla posata del mare se mai andata a Gherovicchia, si chiama la posata del mare, lì ho mangiato molto bene. Non so se stai parlando di quello del servizio, no? Alla chiesa di... Chiede San Francesco, ci sono quale cantare, quale cantare, c'è quel tipo che si mette, quale. La posata del mare rimane proprio nelle vie vecchie di Algheria, adesso non mi ricordo bene dove. Siamo passati per caso e ci siamo fermati a mangiare, abbiamo mangiato dal primo fino ad arrivare al dolce, tanto è vero che ha fatto, io ho preso un tiramisù e praticamente mi è piaciuto. piaciuto tanto. Posso chiedere come l'avete fatto questo tiramisù? Sì, sì, chiamo il cuoco e glielo faccio venire, perché mi è piaciuto, sì, molto buono, è molto delicato come è fatto. E lui ha detto che ci aggiunge la panna, oltre a quello che come lo facevamo noi, lui ci aggiunge la panna. Dal giorno abbiamo messo la panna a casa, e c'è questo tiramisù così delicato, così buono. Già, io devo stare tagliando tutto, non posso sempre la dieta, la posso solo guardare questa cosa, non so se non la posso mangiare, ma diciamo che una volta, un'altra, ma buffata da tutto il video, dai, già, poi io mangio, mangio poco, mangio 6-7 volte al giorno, io mangio 3 ore, faccio mangiare un po' di fine, molte volte mangio più di un'ora, infatti mangio più di un'ora e fa, stiamo mangiando, arriviamo ai 15, e poi niente, però una volta a settimana, 10 giorni, quando andiamo ad Alghero, che andiamo a mangiare fuori, succede questa sbandata, mi bevo anche una bottiglia di vita, cosa che io, però, per capire, non faccio più di attenzione. Però ripeto, è stato il racconto del dottore, mi ripiace, una settimana da mi racconto voi. Allora Bru, io faccio tutta la settimana che non mangio primo, no? Però il sabato quando esco con le amiche, con gli amici, mi concedo sempre anch'io qualche cosa di extra, diciamo. I primi, guarda, io per la pasta davo matto, non sto più mangiando pasta, non sto più mangiando riso, niente. Le cose, le licurni e queste cose qui, quando le mangio fuori al ristorante, perché se no a casa io mi accontento di una fettina, un po' di insalata, due arance e via, capito? Non mangio molto, anche perché mi devo tenere lì, che sai, con l'età poi, con l'età ingrassi, poi io assimilo molto, capito? Quindi devo stare attento. E dunque quando sbaglio fa solo questo mangio, non sono una cosa, io sto mangiando, mangio cose che mi fa male, posso mangiare verdura, non mi fa male, mangiare qualcosa, carne, poco fresco, ecco perché faccio più pasta, capito? Ma che sto raffreddando, non era per dire, però ogni tanto decido di farmi venire qualche rosso, ma come giù, pure i pazienti, non è fastidio pure, e vado a farmi fuggire allo stradale con un po' di freddo, però purtroppo ogni tanto esagero, esagero, e capito. Vabbè, ogni tanto a me il dottore mi dice una volta alla settimana va bene, il resto della settimana Ramadan, così mi ha detto. Io sono il contrario di te, io i carboidrati li devo non eliminare ma ridurre di molto. Posso mangiare come voi rimando, essere le copie alle basi, pago, pago. A quel punto, quando riesco, infatti c'è più. Purtroppo è così, quando si diventa grandi bisogna ridurre tante cose, anche tanti hobby che io avevo, tante cose le ho ridotte, perché poi alla fine non ce la fai, bisogna ridurre anche il cibo, così come tutte le altre cose, bisogna ridurre il cibo, perché il cibo, se non sei sano totalmente, anche se sei sano devi stare attento, però se sei sano qualcosa di più la puoi mangiare, ma se hai il diabete come ce l'ho io, che devo stare molto attento, ma io la glicemia ce l'ho sempre giusta, anche troppo bassa a volte, perché ci sto molto attento, a volte mi si abbassa troppo e mi sento cappuccino, subito devo mangiare qualcosa perché mi si abbassa troppo. Però sono sempre sui 97, 85, 65, al massimo è 100, quindi sono sempre nella norma. Prima già mi saliva 200, 300, quando me ne fregavo un po', adesso sto molto attento. No, però l'unica cosa che adesso fanno la fa, io viaggio praticamente l'epica del sale, però sul